Via! Sì, andiamo presto! Shh, non facciamoci sentire! Ehi Ale, guarda che cosa strana in giardino! Ehi, è incredibile! Chi ha accumulato quella montagna di pine? Usciamo a vedere! Niente, un bel mistero! In giro non si vede anima viva! Svegliamo Giorgio! Giorgio, svegliati! Che c'è? Che succede? Stanno arrivando i missili! Me lo sentivo, lo sapevo, ve l'avevo detto! Gli americani sono pistoleri! Appena si sentono minacciati, tirano fuori la pistola e sparano! Solo che ora i loro proiettili sono testate nucleari montate su missili balistici intercontinentali! Quanti minuti prima dell'impatto? Ma che... è che abbiamo un problema! Insomma, un problema, non esageriamo! Diciamo che è successa una cosa insolita. Vieni a vedere. Cosa? Ma chi è quel matto sciroccato sballato, figlio di una mongolfiera sgonfia, che ha montato una piramide di pine nel nostro giardino? Se lo chiappo! Ma come? Mi sbatto ogni giorno per rastrellare e annaffiare il prato e arriva il primo bibbone, figlio di Maremma, e mi rovina il lavoro di una settimana! Ah! Se vengo lì, io vi spacco la faccia! Giorgio, ma che sarà stato secondo te? Ma che ne so, senz'altro un figlio di chi dico io! Perché, scusa una cosa, ieri sera quando siamo andati a letto il giardino era sgombro e senza neanche una foglia, mentre adesso sembra il gran premio della montagna, e di una montagna alta come il Kilimangiaro! Ehi, guardate lì fuori! Ecco forse il responsabile di questo macello! Ma è un topo, un rattaccio schifoso! Però strano, ma che pelo rosso! E che? Una pantegana irlandese! Ma no, è uno scoiattolo rosso! In latino si chiama Chulus vulgaris. Ecco, lo sapevo che il colpevole era un qualche volgare zoticone! Adesso esco e gliene dico quattro! Ehi, pezzo di roditore rosso malpelo, vieni qua che te la faccio passare io la voglia di fare il faraone nel nostro giardino. Ui, che botta, mi son preso una pina in faccia. Presto, chiudete la porta o quello ci tira un'altra fiammata. Che strano, uno scoiattolo rosso da queste parti. È un po' che non se ne vedevano in giro. Ma andiamo che non è vero! Vi ricordate l'anno scorso quando avevo comprato quelle carissime noci di Grenoble? Mi ero svenato per acquistarle e i gemelli invece le usarono come fish per giocare a poker! Spennarono i loro amici, finirono la partita e le lasciarono sul tavolino del giardino! La mattina dopo quelle poche rimaste le trovammo sgranocchiate da uno stramaledettissimo roditore che con la panza piena ci prendeva in giro da in punta a un pino! E quello era un topastro perché era grigio come l'asfalto. Quello non era un topo, era uno scoiattolo grigio. Si chiama Chulus carolinensis perché viene dalla Carolina, che è negli Stati Uniti d'America. Dall'America? E come diavolo ha fatto a finire qui a Bibbona? Qui siamo vicini alla California, non alla Carolina, che sarà lontana più o meno 8000 chilometri. Ho capito, c'è arrivato dalla base di Camp Derby a Pisa. Ce l'avranno imposto gli americani come compensazione di guerra. Quelli per espandersi. Pare invece che a portarli in Europa siano stati gli inglesi. Anzi, un inglese, il duca di Bedford. Nel 1876 ne importò alcuni esemplari e li liberò nel parco della sua villa e fu un delirio. Lo scoiattolo grigio è molto adattabile e mangia più del rosso, molto di più. e quando non gli rimane altro, si mangia pure il cibo del rosso. Per questo in Inghilterra gli scoiattoli rossi sono a rischio di estinzione. È proprio uno scoiattolo americano, se si mangia tutto quel che c'è e poi si mangia anche il cibo degli altri. Qui in Italia lo scoiattolo grigio è presente in misura massiccia solo in Piemonte, ma se ne cominciano a trovare esemplari un po' in tutto il centro Italia. Se non verrà fatto qualcosa, il rischio è che lo scoiattolo rosso sparisca anche da noi. Già, e come te ne liberi di questi americani? Una volta che hanno messo piede in una nazione, non c'è più modo di schiodarli. Anzi, iniziano ad americanizzare ogni cosa. Hamburger, birre scadenti, macchinoni e soprattutto case in centro da dare in affitto per farli venire a mangiare pizza con l'ananas e cappuccino. E l'obbligo di imparare l'inglese per tutti. Inutilmente, perché pizza e cappuccino in inglese si dicono pizza e cappuccino. Per sradicare lo scoiattolo grigio, per adesso c'è solo un sistema: il capocollo, cioè vanno soppressi. In Australia ci sono già riusciti e in Inghilterra sono avanti con il programma. E in Italia? Ci hanno provato. Ma se Ministero, WWF e Lega Ambiente sono d'accordo, altre associazioni non lo sono. Allora ricorrono alle vie legali. E siccome in Italia le leggi sono bizantine, ai giudici tocca condannare in primo grado gli operatori e poi assolverli in appello. E lo scoiattolo grigio nel frattempo ringrazia. Gli sta bene a questi darwinisti. Credono o non credono nella sopravvivenza del più forte. Alla fine ci sono due specie e quella più gagliarda vince. Se il rosso schiatta, sono affari di madre natura. Una specie di scoiattoli basta e avanza. Guarda che la legge del più forte è un'idea del filosofo Spencer, non di Darwin. E comunque di specie di scoiattoli ce ne sono tantissime. Abitano l'intero continente americano, ma anche tutta l'Europa e l'Asia. Non ce ne sono in Africa e in Australia gli hanno fatto il caput. Ma lo scoiattolo grigio tra tutte è l'unica specie invasiva. Fosse per lui si trasferirebbe anche in Congo. In effetti anche lo scoiattolo siamese è stato introdotto in Piemonte come quello grigio. Però lo scoiattolo siamese ha formato una popolazione stabile, mentre quello grigio minaccia adesso di invadere le Alpi. È una storia vecchia. Gli americani si metteranno d'accordo con i mafiosi e in 4 e 4 8 si prenderanno la penisola. Se intendi che gli scoiattoli americani si accorderanno con quelli dell'Italia meridionale per spartirsi il paese o comunque in cambio di protezione e impunità, direi che è un'opzione improbabile. Nel sud dell'Italia vive un'altra specie di scoiattolo, Shurus meridionalis, che è di colore grigio scuro e che è stato scoperto, diciamo riconosciuto, appena qualche anno fa. E a lui degli scoiattoli americani non gliene frega un accidente, perché lo scoiattolo americano non si ibrida con gli altri. Oh oh, guardate un po' cosa sta succedendo là fuori. Incredibile, gli scoiattoli rossi stanno arrivando a centinaia. Scendono dagli alberi, escono dai cespugli, spuntano dai tombini e si stanno piazzando intorno alla piramide. Ehi, ma a capo di questo battaglione ci sono i gemelli. Ma che stanno facendo? Ale, apri la finestra così sentiamo quello che stanno dicendo. Mettersi in posizione, presto! Voi coprite il fianco destro! Voi! Puntare, caricare fuoco! Guardate dall'altra parte della strada! Gli scoiattoli grigi tentano il contrattacco. Forza, resistete! Colpite quello laggiù che è il più grosso. Quel ciccione di hamburger e Coca-Cola se ne sarà mangiati parecchi. D'altra parte, vi ricordate del generale Schwarzkopf, il capo della tempesta del deserto in Iraq nel 91? Sarà pesato almeno 2 quintali. Il loro capo dà ordine di ritirarsi. Presto, inseguiteli! Siamo a casa! Abbiamo salvato l'Italia! Sì, bah! Per adesso gli scoiattoli americani si sono ritirati in Piemonte, ma torneranno! Magari in occasione di una visita di Trump! E torneranno ancora più armati e con regole di ingaggio ancora più spinte! Diteglielo un po' agli iracheni! Ve l'ho detto, sono pistoleri nell'animo e non amano perdere! A proposito di americani, indovina chi sta arrivando? Sono mezzi USAR EUR. Vengono dalla base. Ragazzi, siamo fregati. Questi non mollano l'osso. Cominceranno a dire che sono qui a difendere il modello di vita americano, a esportare la democrazia, a portare la sovranità della giustizia invece che la legge della giungla. E adesso come facciamo? Avete un po' di petrolio? Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday.